de clarinete. Gennaio del 2024 inizia prove tecniche di trasmissione anche per questa sera. Spazio che andrà avanti sino alle 22:30 e spetterà a noi concludere l'intera giornata di questa emittente che ricordo ancora una volta vive attraverso la sottoscrizione di chi la sente, del contributo dei centri sociali eccetera eccetera, e quindi sul sito della radio www.ondarossa.info si possono trovare le varie modalità di adesione, sia quelle elettroniche sia quella cartacea eccetera eccetera. Cominciamo a fare qualche rapido saluto. Maia che ci sta ascoltando dall'Umbria, Lucia Cagliazza di Lupsi, Sara Capo Fontana, Antonio Tognetti, credo Viterbo, ottimo musicista di aria Dissipazio, presto ci ascolteremo il suo ultimo lavoro. Un saluto a Massimo Pasqualetti, Doriana Panico a Taranto, Anna qui a Roma, Deste Carlo from Boston, a Cortina d'Ampezzo, Tabula Rasa. Pi Greco con Tiziano Zeno Farinacci, Enrico Marcheggiani di Blocco Nero, se non ricordo male anche lui dal Piemonte. Mariano a Roma, Sara che non ci sta ascoltando ma in genere lo fa da Berlino, al pari del buon Ludovan che vado ad abbracciare. E poi abbiamo ormai un'istituzione dell'industrial italiano, sia Antonio Zoviet con Omicidio. Un saluto anche al medico della peste, a Mario Lino Stancati, a Lake Wake. Noise Cluster con Flavio Derbecante e Arianna Degni Lombardo, Francesco Cornello, Mara Lasi e Daniele Serra di Calitis. Ci siamo goduti il loro splendido esordio con questa ragione sociale, cosa che faremo anche lunedì prossimo. Un saluto a Scagno Borga. E andiamo ad iniziare proprio con Lupsi, Lucia Cagliazza da Udine. Una delle realtà più interessanti nel campo della sperimentazione italiana. Lei usa la chitarra trattata con effetti vari, un po' come il nostro Ascanio Borga. Interessante se volete fare anche un confronto tra questi due ottimi musicisti. Cominciamo proprio con Lupsi, con il suo ultimo lavoro Blood and Stars. Ci ascoltiamo Interdimensional Spring, Northern Stars, Robert Calling. approcci musicali dominati dal potere onirico generato dalla maestria di Lucia Cagliazza in arte Lupsi, appunto sognante, dilatato, che ha riportato in mente, per esempio, al sempre attento Antonio Zoviet, certi passaggi cari ai Sigur Rós, a Fennez. Aggiungo i primissimi Pink Floyd e la scuola krautrock di cosmica memoria tedesca. Blood and Stars, ultima fatica per Lupsi. Vari trattamenti di chitarra caratterizzano l'intero lavoro. Saluto Xaide, ossia Dario Arrighi e Sara Capo Fontana, che abbiamo apprezzato in passato soprattutto come progetto No Name, e bontà loro, si sono buttati in un'altra avventura musicale. E per Xaide l'ultimo lavoro si chiamerà Mille Anime, e speriamo di mandarlo al più presto qui da queste frequenze e da questo spazio. Altra colonna italiana della musica sperimentale, ancor più datata e storica, sto parlando di Marco Milanesio, disordine, ma anche produttore, remixatore, arrangiatore, in una dimensione qui un po' diversa, una dimensione teatrale, infatti è musica per teatro, e questo lavoro del lontano 1989, riveduto e corretto e stampato nel 2023, si sonorizzava Marassade e Red, due piece teatrali. E quindi Marassade parte 4, 5 e Red Prepost. questa circostanza un Marco Milanesio attraverso disordine decisamente eclettico e diversificato nella proposta sonora ci ha portato nelle vette crepuscolari di Marassade numero 4 fino a un'accigliata e disturbata Marassade numero 5 e sulla stessa vena è partita anche Prepost dallo spettacolo Red, esperimenti del lontano 1989, come ho detto già opportunamente rimessi in circolo nel 2023 dallo stesso Marco. Saluto Danilo Banano e Margherita Montoneri, entrambi qui da Roma. Il buon Flavio Del Becante sta tirando fuori degli storici flyer, come si dice una volta, un live di Limbo di Gianluca Picuzzi, che vedeva in apertura il buon Cupio Dissolvi di Venusi a Zolzetta Stramonio, stasera al momento assente, e anche un volantino che ci riguarda. Quando Fedro svolgeva un ottimo programma qui in radio sulle autoproduzioni live, mentre adesso è impegnato in un programma che riguarda il cinema e il teatro, se non erro il martedì. Sentite qui invece come Marco Milanesio sta viaggiando su coordinate più vicine all'Aibach, per esempio. I stessi Aibach saranno impegnati in prospettiva anche in uno spettacolo teatrale che vede al centro la poetica e gli scritti di Bertolt Brecht. Loro saranno attori, ma sembrerebbe anche musicisti. Staremo un po' a vedere e casomai a vederli anche dal vivo. Suoneranno a Bologna e Ravenna nel prossimo aprile. Lasciamo momentaneamente l'Italia e andiamo da Ilpo Vaisanen, mente indimenticata dei Panzonic insieme a Mico Vainio, ma in maniera diciamo alternativa, aveva anche diverse alternative appunto musicali, per esempio Piri, e qui abbiamo GPU Revised, una traccia remixata da vari soggetti. E questa sera l'abbiamo rifatta da Dual Exciter e da Phonem. più revised per quanto riguarda il Povaisanen sotto la ragione sociale che porta il nome di Piiri. Rovelli un po' musicali che andavano dal dub stravolto del versione di Dual Exciter. Il resto una sorta di remake, per esempio, di Disco Hospital dei Coil, con cui aprivano Love's Secret Domain. La ritmica sembrava quella, l'atteggiamento e l'approccio lisergico anche. Il Povaisanen Piiri durò l'arco di 3 anni, poi ha chiuso i battenti. Un piccolo aneddoto riguardante i Panasonic: vennero a suonare qui a Roma, se non ricordo, ma tra le altre cose anche alla fine degli anni 90, in un allora centro sociale dal nome Brancaleone. Ebbene, dovevano suonare una domenica pomeriggio insieme ad altri gruppi, Schneider, Trademark ed altri. Loro dovevano suonare alle 19, un orario un po' particolare, ed eravamo anche contenti per il fatto che il giorno dopo era lavorativo. Ebbene, inizia alle 19, puntuale, passano 3 minuti, non di più, e Mika Vainio comincia a urlare come un ossesso. Comincia a prendere a calci la tastiera, la butta per terra, e noi pensavamo che fosse uno degli act più radicali per quanto riguarda Panasonic, e invece la verità era, diciamo, tra il comico e l'amaro, era un Mika Vainio completamente fuori di testa, alterato al 200%, portato via in braccio, concerto finito dopo 10 minuti, e noi con la coda tra le gambe a casa. Purtroppo Mika Vainio ci ha lasciato qualche anno fa, troppo presto, aggiungo io. I Panasonic che hanno scritto delle pagine gloriose, ma anche i progetti paralleli sono stati e sono tuttora interessanti. Antonio Zoviet li paragona in qualche modo ai Matomos per quanto riguarda la capacità di scomposizione sonora, e mi dà anche una buona idea Antonio Zoviet, così la prossima settimana portiamo qualcosa dei Matomos, delle loro ultime produzioni. Vedo che altri amici erano presenti anche loro, Flavio Derbecanti, il buon Ascanio Borga. Poi sono anche ritornati a Roma, hanno suonato anche insieme ai Suicide, hanno suonato in altre circostanze in maniera proprio presente. E vado a salutare Luciano FM. Confermo che suonarono probabilmente tra le prime volte al Forte Prenestino molti anni fa. Quella volta me li sono persi. E comunque si va avanti. Ecco l'Indonesia di Senyawa, uno degli act più interessanti provenienti da laggiù. Al-Kisa, industrial, materia etnica, esoterismo, e ci ascoltiamo Fasi, Al-Kisa numero 2 e Kiamat. Fasi bertariak, Fasi yang baik adalah Fasi yang mati. We'll be right back. trasporto lirico, ma anche la violenza sonora da un lato, ma anche un qualcosa di iniziatico, di esoterico. E quindi il mistero sia dell'idioma, che chiaramente qui in mezzo nessuno capisce, aumentando un po' il mistero e l'interesse per questo fenomeno proveniente dall'Indonesia. Rulli Shabara Herman e Bukir Suryadi, i due musicisti di base di Seniawa, in attività dalla metà degli anni 2000. E questo era Al-Kisa, un album del 2021. E sono le ore 22 qui a Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza e nel web